the winner, and the winner, the winner is MC Hammer. Hammer. Hammer. You can't touch this. You can't touch this. Un tempo fatto di mostri ballerini, sorrisi sdentati che si nascondono dietro pubblicità da dentifricio, fresco rinfrescante al fluoro contro la placca, contro il tartaro, contro l'ingiallimento dei denti, contro, ma a favore di te, giovane consumatore che vuoi sentirti bello. Ah, e dimenticavo, l'alito fresco per poter baciare ogni volta che ti va. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. Un tempo il nostro, fatto di questi personaggi strani, con quelle facce, che si aggirano in TV a prometterci crescita. Mi chiedo, ma dal pene? È il nostro motto preferito ascoltandole, ma vaffanculo, va. Mostri di cartapesta, di pixel, mostri da spettacolo. They can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Il tuo smartphone in una mano, touch. Il mondo in una mano, tutto a portata di touch. Tocca, sgrilletta, alletta, diletta la tua voglia di appagare le voglie, soddisfa la tua bramosia di clitoride toccando uno schermo a cristalli liquidi, una cuffia, un microfono e tanti accessori. Accessoriati la vita. Con un tablet, un PC, una TV a plasma, mega schermo 3D, occhialine e cazzo in mano, chip, microchip, chip e chop. E quattro noccioline da sgranocchiare, rubate, quelle sì, ai veri chip e chop, quelli della Disney. Ma non arrenderti, non fermarti, credi in te stesso, l'unico che può salvarti, conta solo sulle tue forze, sulla tua volontà, non c'è niente in giro che potrai trovare capace di soddisfarti più o come il tuo ego, la tua spassionata voglia di emergere, di metterti in mostra, di essere qualcuno vestito bene, una bella macchina, una bella donna che ti scodinzola dietro, un prodotto da vendere imballato e poi buttare. Quanto tempo è passato e quanto tempo passerà prima che capirai quanto importante sia ciò che sei, solo ciò che sei. Non conta se i tuoi genitori siano delle brave persone o dei criminali, se i tuoi amici sono persone a posto o dei potenziali serial killer, se il quartiere nel quale sei cresciuto è un mondezzaio a cielo aperto, o hai giocato al pallone nel parco giochi pulito con mamma a guardarti da lontano. No, non conta nulla, conti solo tu, solo ciò che sei, quello che vuoi. Vuoi il mondo? Compratelo. Non hai bisogno di nient'altro che di una carta di credito e una buona memoria per ricordare il PIN. Il tutto a partire da un prezzo ragionevole in offerta, la tua vita, quella che non conta nulla se non sei tu a contare, da 1 a 10, trattenendo il fiato. Allora, chiudi gli occhi, spera, prega, urla in silenzio e comincia a contare. Ricordati il PIN e vai a fanculo. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you. You can't touch this. Too high. Can't touch this. Yeah, we out of here. Can't touch this. Grosso che non sa che non si entra. Benvenuti, buonasera sulle frequenze di Radio Giroma 105.7 e giroma.org per lo streaming. Noi siamo gli Scarafaggi, come al solito, oggi puntata un pochino, sì, fischi, oggi sta succedendo veramente di tutto in studio. Siamo con Gaetano che mi fa già dei segni. Allora, oggi siamo Andrea, Gaetano, Antonietta e Italo in studio. Cominciamo subito con la rubrica, così ci togliamo il pensiero e poi partiamo con la puntata di oggi. Ci occuperemo di Capocolonna e della salvaguardia del parco archeologico di Capocolonna, che insomma è come tra le mille bellezze calabresi sotto attacco di questa politica e di questo affarismo che ci sta mangiando vivi. Allora, dicevamo, rubrica, oggi 9 marzo. Primo giorno, 9 marzo 1562, una cosa simpatica. A Napoli sono banditi i baci in pubblico. Per i contravventori è prevista addirittura la pena di morte. Quindi pensate un po', a Napoli nel 1562 che cosa si inventavano. Poi, sempre 9 marzo 1800. Per le contravventrici? Non lo so, penso che la pena di morte, diciamo che il periodo era quello che era, per le streghe, insomma, hanno bruciato tante di quelle donne sui roghi in quel periodo, quindi. Allora, 1841, sempre 9 marzo, la Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia nel caso Amistad la nave, liberando gli africani che presero il controllo della nave dove erano stati ridotti in schiavitù illegalmente. C'è anche un famoso film con, non mi ricordo l'attore come si chiama. Poi, 1842, no, non ridete, no? Non lo sappiamo. Lo so, no, non ridete. Me la potevo risparmiare questa cosa dell'attore. Però sappiamo il regista, Spielberg, sì, se non sbaglio. Il regista è Spielberg, sì, sì. Poi, 1842, sempre 9 marzo, trionfo al teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi. Ci ho messo questa cosa giusto per omaggiare un pochino uno dei grandi compositori della storia della musica italiana. 1908 nasce, questa qua è una notizia sportiva, molti saranno contenti, nasce l'Inter Football Club Internazionale di Milano, fondata da 44 soci dissidenti del Milan. Quindi oggi è l'anniversario della nascita dell'Inter, quindi per tutti i tifosi interisti tanti auguri, io sono juventino quindi ciao. Poi, 1931, Ernest Ruska, premio Nobel per la fisica nel 1986, sperimenta il primo microscopio elettronico, quindi uno dei traguardi della ricerca scientifica. Poi, notizia simpaticissima, nel 1959, il 9 marzo, debutta la bambola Barbie. Ce l'abbiamo tra i coglioni dal 1959. Pensate un po' quanti anni ha Barbie. Sarà una vecchia decrepita, invece è sempre uguale, di plastica, un po' come le donne che si vedono oggi in televisione. 1967, Svetlana Allilujeva, un nome stranissimo, figlia di Joseph Stalin, che bello, chiede asilo agli Stati Uniti. Dopo, insomma, la denuncia di Khrushchev al congresso del PCUS del 56, praticamente la figlia di Stalin scappa dalla Russia, se ne va negli Stati Uniti, combinazione il grande nemico giurato dell'URSS dell'epoca. Poi, sempre 9 marzo 1976, in Val di Fiemme, la cabina della funivia del Cernis con 43 persone a bordo cade. Uno dei tanti episodi, a causa della rottura della fune in località Masoteta, 42 morti su 43, quindi una bellissima storia, come al solito in Italia sempre queste cose succedono. Poi, 1977, sempre 9 marzo, un gruppo di musulmani anafiti, oggi che insomma l'ISIS va molto di moda, già nel 77 un gruppo di musulmani anafiti assalta tre edifici a Washington. L'anafismo è una scuola del sunnismo, la scuola giuridica, ma perché ridete oggi? Del sunnismo, scuola giuridica costituita verso il VII secolo avanti Cristo, dopo Cristo, scusate. Quindi, insomma, già dal 77 questi gruppi islamici erano votati al terrorismo. Oggi l'ISIS, insomma, è un esperimento molto particolare. Poi in qualche puntata magari ne parleremo più dettagliatamente. Quindi abbiamo finito la rubrica di oggi. Passiamo. Io aggiungerei una cosa. Ieri, 8 marzo, un anno fa, noi festeggiamo, noi del comitato, perché diciamo siamo riusciti a difendere in una giornata storica, in un giorno come quello ricordato come la festa delle donne, anche se per noi la festa delle donne è tutto l'anno, è un luogo comune, ma è così, cioè non ci interessa. In realtà è la giornata delle donne, la giornata che non è una festa, assolutamente. È la nostra giornata di resistenza adesso anche. Assolutamente, quindi ricordiamo i fiori gialli che poi sono entrati nello stemma del comitato. Ricordiamo insomma che Antonietta, che è qui presente oggi, è l'autrice di quelle magnifiche fotografie di quella giornata che hanno girato su tutti i giornali, su tutti i siti, addirittura riprese da siti autorevoli, insomma, nel corso di quei mesi e di quei giorni, insomma. Quindi è lei l'autrice di quelle bellissime foto che rimarranno impresse nella memoria e nel cuore di tutti noi. Abbiamo un contributo, applauso dalla regia? No, niente. A posto, grazie. Applauso, grazie. Di due persone, insomma, squallidissime. Va bene, ricordiamo che quel giorno lo Stato ha sanzionato i manifestanti che hanno resistito alle cariche della polizia per difendere il proprio territorio, combinando delle multe che vanno dai 2.500 ai 10.000 euro, e ancora tutt'oggi non si sa che esito hanno avuto queste multe. Ringraziamo il dottor emeritissimo Gran Lut Fiedentrocche Alfredino dall'ufficio passaporti, un saluto e un abbraccio, ci rivediamo molto presto. Anche se quel giorno il dirigente di piazza era il signor Ma lui c'era. Lui c'era. Regia occulta. Ricordiamo anche le multe. E ricordiamoci che il giorno dopo ha avuto il coraggio di dire che lui umanamente c'era vicino. Dopo che ci ha mandato i poliziotti a manganellarci. Vabbè, insomma, storie di polizia e di repressione. Questo. Assolutamente, quindi sempre a proposito di anniversari, ricordiamo i famosi impegni presi dal Comune di Celico, che lo scorso anno, durante quel famoso consiglio aperto alla sbarra, lì aveva preso una serie di impegni che andavano dalle politiche verso i rifiuti zero, ovviamente che nulla è stato fatto, addirittura una telecamera posta sulla strada che portava i camion alla discarica, ovviamente non è stato fatto, hanno piazzato invece una wifi 2.0 presila sulla piazza di Gerio, così vediamo chi va al bar e chi va a comprarsi le sigarette, così è una cosa bella. Mentre un'altra cosa, prima poi di addentrarci in argomento del giorno e mandare un primo pezzo e poi chiamiamo il nostro intervistato, si è riaperta la battaglia per la discarica di Battaglina, perché la società ha vinto il ricorso al TAR e ha chiesto un indennizzo abbastanza cospicuo al comune, quindi si riapre il fronte Battaglina e ancora una volta il sindaco ha fatto il suo comunicato, ovviamente esterrefatto di quanto accaduto. Mentre noi ancora siamo qui, stiamo preparando, è già pronto il nostro ricorso al TAR, però purtroppo vediamo che nonostante tutto, nonostante le palesi illegalità come a Battaglina, come a Celica e in altre discariche, la situazione perdura nel tempo, nonostante ci siano avvicendate le giunte regionali, giunta che ancora tutt'oggi non è completa, tra poco scade il termine ultimo dei 60 giorni per nominare gli assessori, ancora siamo in attesa di chi prenderà questa delega all'ambiente. Veramente inspiegabile. Domani forse c'è il consiglio, se non succede qualcos'altro domani c'è il consiglio regionale, piano piano ce la possiamo... Domani è Regione Evica. ce la possiamo fare. E un'altra notizia, sempre in materia di rifiuti, in Senato è passato sto emendamento, sto disegno di legge che... con 165 voti favorevoli, 49 no e 18 astenuti addirittura, degli ecoreati. Ovviamente sono un po' di baggerate, nel senso che si allungano i termini di prescrizione e si paventa una punizione all'eclusione dai 5 ai 15 anni, e il ministro Orlando ha tuonato mai più un caso Eternit. Vabbè. I soliti slogan politici, poi alla fine... Ma insomma, non va in contrasto con l'altro decreto legislativo? Lo sblocchi Italia, assolutamente sì, ma lo sblocchi Italia va in contrasto. Si creeranno una serie di ricorsi alla Corte Costituzionale, sì, ai TAR in tutta Italia, e poi insomma ci lamentiamo che la giustizia in Italia è farraginosa quando i legislatori fanno queste cose. E se no, perché l'hanno chiamato sblocchi Italia? Infatti anche sulla vicenda di Capocolonna sicuramente lo sblocchi Italia ha contribuito. Ha i suoi perché. Possiamo ribattezzare sbrocca Italia. Infatti stavo dicendo la stessa cosa, sbrocca Italia, per far sbroccare un pochino la gente. Detto questo, possiamo mandare il primo pezzo e poi ci ritroviamo con il nostro intervistato. Diciamolo, insomma, se ci sentite strani oggi, prima di cominciare la trasmissione è successo di tutto, eravamo proprio in altissimo mare, siamo partiti veramente col fiatone, quindi ci scuserete. Poi ma faccia sangue esce, io mi coro chi sto m'amore. A terra mia un fanno mare, non mare come nata. O mare mia, io mare. Mannaggia, ingadanata, scamazzata, scassata. Non binare abbandonato, quando si fa di risportare. Tanti volte quando sono in macchio, tanti macchio, tanti volte. Ai siamo una mano e facciamo vera, ai siamo una mano e muovimoci insieme. Ai siamo una mano e facciamo qualcosa, sì, ci crema ancora. Ai siamo una mano e facciamo vera, ai siamo una mano e muovimoci insieme. Ai siamo una mano e facciamo qualcosa, sì, ci crema ancora. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voglio pane e libertà, una nuova verità. Una musica senza stella, facciamo bandierina. Un pugno, una rosa, colore, sangue, raiera. Aizziamo una mano e facciamo vera. Aizziamo una mano e muoviamoci insieme. Aizziamo una mano e facciamo qualcosa, sì, ci crema ancora. Aizziamo una mano e facciamo vera. Aizziamo una mano e muoviamoci insieme. Aizziamo una mano e facciamo qualcosa, sì, ci crema ancora. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Voce nomma, voce mi, voce popolo, voce di. Salve, siamo ritornati in studio oggi, proprio sta succedendo di tutto. Abbiamo già in linea il nostro ospite del comitato Salviamo Capocolonna, Andrea Correggia. Buonasera, grazie di essere con noi questa sera. Ciao a tutti. Mi senti? Grazie. Sì, io ti sento. Ok, ciao a tutti. Perfetto. Niente, siamo molto interessati, insomma, questa questione di Capocolonna. Vorremmo capirne meglio perché, come molti calabresi, siamo disinformati, quindi quello che vogliamo fare oggi è un po' di informazione sulla vostra situazione, che cosa sta succedendo, qual è il reale problema. Quindi spiegaci un po', così a grandi linee e velocemente, com'è la situazione lì da voi. Ok, io vi racconto un attimo cosa è successo, non so se avete già raccontato un po' antefatto. Praticamente il comune di Crotone ha fatto questo progetto, aveva preso questo finanziamento da circa 2 milioni e mezzo per poi girarlo alla sovrintendenza per fare il titolo di questo progetto è Ampliamento delle conoscenze della realtà archeologica di Capocolonna e messa in sicurezza della realtà archeologica. Ecco, questo progetto prevedeva varie azioni. Tra queste azioni era quella di sistemare il sagrato della chiesa di Capocolonna. Ecco, quindi hanno cominciato a fare i lavori davanti al sagrato della chiesa e negli scavi, prometto che la chiesa è all'interno del parco archeologico, Durante gli scavi hanno trovato questo foro romano, o meglio, hanno trovato dei ritrovamenti, si pensa sia un foro romano. Degli studi però, insomma, non sono stati fatti per approfondire la datazione, no, cose... No, non è stato fatto uno studio approfondito, non è manco stato fatto una presentazione alla città di quello che hanno trovato. Quindi la sovrintendenza, come ha trovato questo foro, ha pensato bene di continuare i lavori e quindi di coprire questi lavori con tessuto, non tessuto, terra, e poi mettere uno cemento sopra questo sagrato, sopra questo ritrovamento. Insomma, poi sono andate le betoniere nel parco archeologico. Questa cosa, insomma, ci ha un attimino, come dire, insomma, fatto arrabbiare. Quindi vi siete costituiti subito in comitato, in un gruppo di cittadini, avete cominciato a lottare per salvare. Praticamente in realtà siamo andati sul posto, anzi io no, dei ragazzi sono andati sul posto, hanno bloccato i lavori. E questa cosa è stata detta su Facebook, insomma, è stato un tam tam generale. Io ho letto su Facebook quello che stava succedendo e siamo andati. E quindi abbiamo deciso di presidiare il posto e di non far continuare i lavori. E successivamente abbiamo deciso di costituire il comitato. Dimmi un po', ancora il blocco dei lavori permane, quindi siete ancora lì a bloccare il... No, guarda, noi siamo stati là 15 giorni, notte e giorno, abbiamo dormito a freddo. E poi che è successo? Poi abbiamo avuto una serie di incontri, è venuto il ministro Lanzetta, l'ex ministro Lanzetta, perché insomma nel frattempo era stata fatta un'interrogazione parlamentare dal 5 Stelle, insomma la politica si era un po' mossa, anche il PD ha fatto interrogazione parlamentare su quello che stava succedendo, è venuto il ministro Lanzetta, ha visto quello, insomma era dalla nostra parte, poi abbiamo avuto un incontro in prefettura con la sovrintendenza. La sovrintendenza ha scelto di sospendere i lavori finché il ministro insomma non sarebbe intervenuto. E infatti sono Andrea, scusami. Ciao, sono Antonietta. Ti volevo fare una domanda. Ci dici quali sono le vostre rivendicazioni? Che cosa voi chiedete? Sì, noi abbiamo fatto la richiesta delle 3R, cioè rimozione del cemento, rimodulazione del progetto, perché così non va bene, e poi responsabilità, e quindi individuare le responsabilità di quello che, di chi ha fatto queste scelte assurde, perché non è possibile che in Italia si fanno certe cose e nessuno paghi. Queste sono le nostre richieste. Adesso stiamo cercando di, i lavori sono ancora sospesi. Stiamo cercando di avere un incontro con il ministero a Roma. A quanto pare hanno detto che ci verranno, però ancora non abbiamo. Quindi siete in attesa di questo response, sì. Insomma, da parte del ministero. Senti, Andrea, un'altra cosa ti volevo chiedere. Voi vi concentrate sulla parte dei lavori che riguarda la sistemazione del sagrato, o avete anche delle controindicazioni sul resto del progetto? Guarda, la storia del sagrato è stata la scusa per far scoppiare questa cosa, ma in realtà capocolonna non c'è niente che va bene a capocolonna, quindi anche nel progetto, per esempio, sono state fatte nelle variazioni del progetto sono state fatte delle trivellazioni in un ritrovamento. C'è un mosaico praticamente antico che è coperto perché non può essere esposto alle intemperie, quindi hanno fatto delle trivellazioni per mettere una copertura, una copertura, sì. Sì, bravissima. Però insomma, grazie anche agli studi dell'archeologo Margherita Corrado, abbiamo visto che questa copertura è sovradimensionata per quello che dovrebbero fare, perché hanno messo dei pali per 8 metri. Immaginate queste trivellazioni all'interno di un parco archeologico, dove insomma le vibrazioni hanno sicuramente danneggiato i ritrovamenti intorno, e quindi anche questo noi abbiamo contestato. Il problema è che quello è un danno che è già stato fatto, magari invece il cemento può ancora essere rimosso. E poi tra i vari interventi c'è anche quello della casa Sculco, che è una casa che lì, non so se siete pratici di l'intervento più consistente poi dovrebbe essere a livello economico. L'intervento, sì, dove vengono spesi più soldi, è una struttura dove per metà è privata, e quindi hanno pensato di ristrutturarla totalmente, quindi ci vuole, però non si sa che cosa ci vogliono fare, quindi bisogna capire anche lì perché spendere i soldi in questa struttura, tanti soldi, tanto cemento nella struttura, mentre il parco ha veramente bisogno di altri lavori. Pensate che al parco non ci sono neanche i cartelloni che spiegano ai visitatori quello che c'è e che non c'è. Insomma, è un parco che non c'è manco l'illuminazione notturna. A noi sembra che questi soldi, questi finanziamenti vengono giusto per spendere soldi, ma non per valorizzare quello che c'è già un progetto alternativo che voi avete, una serie di... Sì, guarda, progetto alternativo vero e proprio no, però sicuramente ci siamo mossi, e comunque dei cittadini hanno fatto anche delle proposte. Più che progetti io le chiamerei delle idee, per quanto riguarda il segrato in particolare, sì, dei sistemi con delle passerelle in legno, è questo. Poi il problema è che la sovrintendenza dice che siccome a Capocolonna una volta all'anno c'è questa festa e quindi si riempie di fedeli, occorre comunque coprire i resti. Ma noi diciamo che una copertura momentanea per il mese mariano si può sempre fare, come esistono delle soluzioni, insomma, alternative al cemento, questo è quello che diciamo noi. Poi ti ripeto, ciao, sono Italo. Andrea, ti volevo fare un'altra domanda, però mi sposterei più sulla questione politica, nel senso che volevo domandarti, in primis, la partecipazione, se è stata consistente dei cittadini, se hanno risposto ai vostri appelli e com'è oggi, e poi volevo sapere che tipo di vicinanza avete avuta sia in termini verbali, come quelle che hai già detto prima, ma soprattutto in termini pratici, del sindaco di Crotone, per esempio, del presidente della provincia di Crotone, oppure della stessa regione. Guarda, allora, all'inizio è stato un crescendo, perché all'inizio la prima notte eravamo in 9, non si capiva bene cosa stavamo facendo. Poi invece il giorno dopo sono arrivata una trentina di cittadini, è stato un crescendo. La risposta della popolazione è stata eccezionale, perché ci hanno mandato da mangiare, ci hanno dato la legna per il fuoco, ci hanno mandato anche delle coperte, una tenda, insomma. Ricorda molto la nostra esperienza come comitato, sono delle cose che si riproducono. Non ci hanno fatto mancare nulla, non ci hanno fatto mancare nulla. La politica invece, come al solito, va a rilento. C'è da dire che il Movimento 5 Stelle, prima che noi cominciassimo il presidio, aveva già fatto un'interrogazione parlamentare su segnalazione delle associazioni Sette Soli e Gettini di Vitalba, che sono, diciamo, le associazioni che hanno per primo, già da l'estate scorsa, hanno cominciato a fare battaglia su questo argomento, quando già i progetti erano, diciamo, online. E poi invece il sindaco di Crotone inizialmente dopo una settimana dal presidio ha fatto una conferenza stampa dove sposava totalmente la tesi della sovrintendenza e quindi giustificava i lavori. Poi nel frattempo l'ex ministro Lanzetta aveva scritto una lettera contro questo scempio, poi è venuta sul posto e quindi, insomma, visto che la pressione popolare è stata molto forte, abbiamo fatto anche una manifestazione a Capocolonna, una manifestazione culturale, dopo 15 giorni è venuto il sindaco a venirci a trovare, tra virgolette, e il giorno dopo l'arrivo del sindaco la sovrintendenza ha sospeso i lavori momentaneamente al parco. Quindi, diciamo, purtroppo la politica non rispetta i tempi e le velocità con cui la popolazione si muove, questo lo devo dire. E poi, insomma, anche la regione ha mandato, però per quello che poteva fare, perché in realtà hanno poca competenza in materia. Comunque la regione ha mandato un suo delegato a vedere un po', a monitorare un po' la situazione e a capire cosa stava succedendo. Però vi ripeto, l'unico ente che può intervenire su questo è il Ministero, per questo noi stiamo insistendo per andare al Ministero. Stiamo facendo anche una raccolta fondi per fare una manifestazione a Roma, che la battaglia è stata, insomma, direttamente là. Assolutamente, ma infatti per questo ti chiedevo dell'appoggio della regione. Sappiamo che non ha competenze in materia, però comunque ha una forza politica di una portata nettamente superiore rispetto a quello che può essere un comitato dei liberi cittadini, che per quanto informati, preparati, agguerriti politicamente, se rimane un comitato solo hanno poca forza anche a Roma. Quindi la regione non è che deve intervenire per bloccare, dovrebbe intervenire per far bloccare, dovrebbe essere il nostro, il vostro tramite con chi di dovere, perché se questi enti facessero il loro dovere probabilmente non ci sarebbe bisogno della nascita dei comitati. Evidentemente, come giustamente hai già detto tu prima, la lentezza della politica non corrisponde a quella che sono le esigenze reali, non sono assolutamente ancorati nel proprio territorio. Sì. Guarda, diciamo, la prima settimana Oliverio ha scritto un post in cui interveniva e monitorava la situazione. Poi da allora non sappiamo, alla verità, noi ne abbiamo cercato un contatto diretto con Oliverio, questo lo devo dire per sincerità, però manco lui, insomma, si è degnato di farsi vivo. Adesso siamo in contatto con alcuni parlamentari a Roma, perché questi del 5 Stelle che hanno fatto... Nicola Morra e Paolo Parentela, che hanno fatto interrogazione parlamentare per ottenere un incontro, insomma, insieme alle associazioni di al Ministero, quindi siamo in attesa di questo. Va bene, senti Andrea, adesso facciamo una piccola pausa musicale, poi ritorniamo in studio, tu rimani in linea così poi riprendiamo il discorso. Ok, okay? Grazie. Ok, ciao. A tra poco. Allora, bentornati in studio sulle frequenze di Radio Vici Roma 151 Mutim 105.7 e ciro.org streaming. Proprio oggi una puntata veramente pessima. Allora, stiamo parlando di capocolonne della formazione di questo comitato di lotta per fermare lo scempio che stanno perpetrando, insomma, ai danni di una memoria storica molto importante come i reperti archeologici trovati. Quindi siamo in linea con Andrea Correggio, appunto, del comitato Salviamo Capocolonna. Stavamo parlando di ministero, di forze politiche, di quello che si può fare. Andrea, correggimi se sbaglio, voi avete chiesto un incontro al ministero. Naturalmente il ministro che è venuto era quello precedente, adesso c'è Franceschini, è cambiato il governo, quindi un pochino i tempi si saranno allungati. Il ministro che era venuto non era il ministro dei beni culturali, era il ministro degli affari con la regione, la Lanzetta. Sì, bravissimo. Diciamo, Franceschini c'era anche prima, di quando è cominciata la lotta. Però per competenza di informazione, hanno sospeso i lavori chiedendo l'intervento del governo, del ministero. La sovrintendenza ha chiesto un intervento del ministero, di cui ha mandato dei commissari. Ok, poi quindi successivamente c'è stata la risposta del ministero all'interpretazione parlamentare del 5 Stelle, risposta che non ci ha assolutamente soddisfatto, che sembrava scritta direttamente dalla sovrintendenza. Quindi giustificava il progetto e il cemento. Paolo Parentela ha parlato con il sottosegretario del ministro e ha detto che comunque c'è la disponibilità e la volontà di incontrare le associazioni, e quindi questa ci è sembrata leggermente una forma di apertura, però comunque dal punto di ancora vista ancora niente di concreto, insomma. Niente di concreto, siamo comunque la tensione è alta, quindi non molliamo, perché comunque Capocolonna, cioè, al di là del cemento, che è solo appunto l'iceberg, il cemento davanti al segreto alla chiesa, è comunque un posto che va valorizzato, un posto comunque che è da dove veramente può partire il rancio della nostra città, secondo me. Poi insomma c'è pure il problema dell'erosione della costa, insomma degli smottamenti, guarda, quindi diciamo che la zona è un pochino a rischio anche per altri aspetti, quindi diciamo, guarda, che la cosa assurda, io ho fatto anche un video su questo, che dietro la chiesa c'è il mare che sta avanzando, cioè loro di fronte alla chiesa stanno facendo questo mega sagrato che non c'è manco al Duomo di Milano, forse, questo cemento, e dietro il mare che avanza, e quindi con dei reperti che stanno cadendo a mare, perché dietro la chiesa ci sono pure reperti. E quindi, cioè, è proprio assurda questa cosa. Invece di pensare a salvare quello che c'è, pensano a tombare quello che trovano. Sì, quindi questa è la politica che stanno adottando, diciamo. Andrea, che... scusate, vi interrompo. Ah. Senti, a me è sembrato, l'idea che mi sono fatta, è che il tipo di turismo che si vuole captare con questo genere di progetti non è il turismo di ampio respiro, il turismo culturale, il turismo che serve alla Calabria, ma piuttosto un turismo di massa, di grandi affollamenti per poco tempo. Voi su questa cosa come siete messi, come vi esprimete, che tipo di turismo vorreste per Capocolonna? Guarda, sicuramente questo progetto, per come l'hanno messo in atto, non porta nessun tipo di turismo, né di massa né culturale, cioè manco religioso, perché al massimo si possono fare dei bellissimi matrimoni davanti alla chiesa con questo mega sagrato, cioè più di questo io non ci vedo. Il turismo che io immagino per Capocolonna è un turismo comunque culturale, però Capocolonna, per chi conosce la zona, vi posso assicurare che c'è sia cultura, perché c'è questo parco, sia dei paesaggi meravigliosi, c'è un mare stupendo, quindi anche il turismo, insomma, il mare andare col camper, fare campeggio, quelle parti, è comunque spettacolare. E inoltre Capocronna è anche una zona agricola e quindi ci sono dei prodotti agricoli buonissimi, insomma, e quindi ci sono più parti da sviluppare su Capocronna. Il turismo di massa, per quello che penso io, non va bene a Capocronna, perché ripeto, il paesaggio è spettacolare, quindi bisogna rispettare quello che è il nostro territorio. Il turismo di massa lo distrugge, quindi io sono contro certe cose, però gli agriturismi bellissimi, insomma. Quindi la situazione è questa qui, Andrea. Il discorso, io se posso fare una considerazione personale, insomma generale, sulla questione, dal mio punto di vista, quello che va fatto in questo momento è, al di là insomma di continuare a ricercare il dialogo con il ministero, con le istituzioni, con tutte insomma le forze politiche e via discorrendo, secondo me la cosa importante da fare è quella di strutturarvi in maniera tale da poter proporre voi un progetto complessivo alternativo e praticabile nella zona. Guarda, anche visto perché insomma non si tratta solo della zona del Sagrato, ma è qualcosa che andrebbe a interessare l'intera area di Capocronna, insomma della costa, appunto per rilanciare una forma di turismo un pochino più di qualità e non, sì, e non distruttivo, il turismo classico di massa, insomma, che porta giusto quella folla di persone che poi insomma sappiamo come vanno le cose, quindi sì. Dal mio punto di vista questo è quello che dovreste fare in questa fase. Guarda, a me non mi piace chiamarli turisti, a me invece chiamarli visitatori. Chi va a Capocronna deve visitare quella zona ed essere ospite di quella zona. Poi volevo dire un'altra cosa: l'aspetto bello di questa protesta è che comunque non è la classica protesta per il posto di lavoro o per carità, che sono da rispettare anche quello. Questa è una protesta culturale. Noi, quella che noi vogliamo difendere, è la nostra identità, la nostra storia. Perché noi col cemento ci ha offeso, perché noi non siamo, la maggior parte di noi non è gente del posto, cioè non è gente di Capocronna, siamo di Crotone, però Capocronna è fuori Crotone. È gente che ama la propria terra, la propria identità, e quel cemento ci ha offesi da cittadini. Quindi la cosa bella è che questa è una battaglia culturale, questa è una cosa che è molto emozionante. Poi siamo comunque riusciti a fermare la sovrintendenza, che di solito insomma, non è semplice quando si mettono in moto questi meccanismi, non è semplice. Va bene, Andrea, grazie. Ti ringraziamo, vi lanciamo il nostro in bocca al lupo. Noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi cosa, anche se ci saranno sviluppi in futuro. La trasmissione è sempre aperta per voi. Sì, non solo la trasmissione, naturalmente noi siamo un comitato insomma che si occupa di rifiuti, di discarica, quindi abbiamo problemi un pochino diversi, però poi sostanzialmente la matrice è identica, perché sì, le politiche di sviluppo in Calabria sono quelle che sono, quindi chiamarle politiche di sviluppo poi è pure una parola grossa. Quindi sì, ti ringraziamo, vi diamo l'in bocca al lupo, mi raccomando, continuate così. Ritorno a dire, dovete essere molto più incisivi dal punto di vista della proposta, perché dovete essere voi i principali artefici della progettazione del vostro futuro, proprio per richiamare quello che dicevi tu, che il cemento ha leso la vostra dignità, proprio la vostra identità culturale. Quindi, quindi questo, ti salutiamo, grazie per essere state con noi. Ciao, grazie, ciao Andrea. Grazie, ci sentiamo presto. Ciao, ciao. Noi andiamo in un'altra pausa musicale, così nel frattempo ci ristoriamo, sì, e ci sentiamo tra poco. A tra poco. Allora, bentornati in studio sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 e ciroma.org per lo streaming. Noi siamo gli Scalafaggi. Quindi oggi abbiamo parlato della situazione di Capocolonna, una delle ennesime situazioni diciamo tragiche di questa nostra povera terra martoriata da questa politica veramente criminale. Adesso Italo, chiudiamo con qualche notizia, qualche informazione in più da dare ai nostri ascoltatori, giusto per informare al meglio chi ci segue. Assolutamente sì. Giusto per fare un attimo un appunto sulla questione di Capocolonna. Capocolonna è un diciamo un sito archeologico, e come sito archeologico è un bene comune, è cultura, e quindi si sposa con tutte le lotte che sono presenti sul territorio, da quelle del lavoro, quelle del reddito, a quelle della casa, quelle sull'ambiente. È tutto collegato, perché si tratta di difendere i beni comuni. Esatto. Dove la politica non c'è, devono esserci i cittadini, che si devono organizzare, studiare caso per caso, e soprattutto fare rete, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte. Quindi nessuna battaglia è fine a se stesso e da sola, è tutto collegato alla stessa tematica politica, culturale, sociale, devono viaggiare tutti insieme le questioni, perché è stato proprio il motivo della divisione che ha portato oggi queste politiche dove... Per esempio interviene un decreto come quello dello Sblocca Italia, dove c'è tutto, persino il bloccare le ricerche archeologiche laddove nasca un progetto per quel territorio. È una cosa assurda in un paese come il nostro, che dovrebbe basarsi sulla cultura, avendo una storia, una cultura millenaria, mista, meticcia di qualsiasi popolo abitato questa terra, specialmente il sud, specialmente anche, possiamo dire, la nostra Calabria. Ricordiamo che questo era un tempio Grecia. Era un tempio dell'antica Croton, non è che è un tempio costruito l'altro ieri. Era qualcosa da difendere ancor prima sia dall'erosione costiera, quindi dal dissesto idrogeologico, ma soprattutto dall'assalto di questo turismo di massa privo di qualsiasi logica, se non quella di deturpare il territorio facendo parcheggi e basta, e nulla. Vabbè, più puntualizzazione penso doverosa e necessaria, e molto importante, credo. Detto questo, andiamo un attimo alla nostra città, nel senso che è una notizia di questi giorni. Oltre a esserci sotto sgombero le canossiane, dove abitano decine e decine di famiglie senza tetto e senza reddito, ricordiamo che un articolo che è apparso un paio di giorni fa di un'amica ha sottolineato come solo in provincia di Cosenza ci siano 12.000 appartamenti vuoti per 3.000 senza tetto presenti sul nostro territorio. Quindi si tratta di abusivismo edilizio, riciclo di denaro sporco, perché ovviamente e ancora continuano a costruire, non si capisce bene il motivo. Vabbè, sono dei giochi anche contabili, insomma c'è un pochino... I discorsi sarebbero tanti da fare sul perché e sul per come viene costruito in questa regione. E a proposito quindi di battaglie di sgombe, di battaglie che hanno lo stesso filo comune, nonostante in apparenza possa sembrare non averlo, l'ultima notizia di questi giorni è che anche il centro sociale occupato Sparro a via Panagulis Arrende è sotto sgombero. Sotto sgombero, casualmente, vediamo dopo aver partecipato e dato sostegno alle manifestazioni indette dai call center, che hanno bloccato... Evento straordinario ed forse unico nel suo genere. Assolutamente, insomma. Che hanno bloccato per un pomeriggio intero l'ingresso dell'autostrada Cosenza Nord, o comunque rallentato il traffico. E adesso questo centro sociale comunque viene punito. È sempre stato uno spazio conviviale, gestito sia per eventi culturali, per eventi politici, ma anche per eventi ludici, nel senso che ovviamente è necessario per l'integrazione fare qualsiasi genere di attività. E adesso anche questo è sotto sgombero, quindi domani martedì 10 marzo alle 16.30 ci sarà una conferenza stampa proprio lì allo Sparro, quindi chi può intervenga e dia la sua solidarietà. Noi come comitato assolutamente massima solidarietà e massimo appoggio, e saremo presenti anche domani alla conferenza stampa per la difesa, insomma, di uno dei pochissimi spazi liberi e di libertà culturale e politica della nostra città, insomma un'esperienza viva che ha segnato e sta segnando comunque il nostro tempo, il nostro piccolo, perché insomma le iniziative che porta avanti lo Sparro sta portando avanti, non ultima per importanza appunto, ma di tempo, quella sui call center, sono davvero delle esperienze da valorizzare e da comunque da appoggiare in tutti i modi. Quindi l'ennesimo attacco alla libertà, che poi insomma tutti quanti si riempiono la bocca di libertà, Jesus di Charlie. Democrazia, Jesus Charlie, insomma facciamo tutti i democratici a parole, però poi nei fatti quando succedono queste cose nessuno prende posizione, anzi quasi quasi si sorride sotto i baffi e si è contenti che questi ragazzi vengano puniti in questo modo. Quindi massima solidarietà, massimo appoggio, forza ragazzi dello Sparv, noi siamo tutti con voi. Poi questo è anche giusto per ritornare nel filo comune, nel senso che lo Sparv, oltre ad aver appoggiato la lotta dei call center, ricordiamo, appoggia la lotta dei senza casa, appoggia le lotte ambientaliste come la nostra, notorio per appoggiare in modo abbastanza spinto la lotta no TAV. Sono state varie le iniziative in cui siamo stati coinvolti anche noi in dibattiti molto interessanti con i portuali del porto di Gioia Tauro, con altri comitati, insomma. Le iniziative sono tante e il filo comune in questo caso è ancora più evidente, ancora più evidente, niente può essere considerato a parte. Sì, diciamo che le cose sono strettamente legate. Sono strettamente legate. Cosa dici, Andrea? Che dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, che il nazista classico, fascista. Abbiamo i fascisti nel nostro comitato. Guarda che sorride, sì, lui ride. Siete voi. Come, scusa, non ho capito. I comunisti siete voi. Ma quali comunisti, dai. Vabbè, comunque, scherzi a parte, quindi il discorso sull'unificazione comunque complessiva delle lotte, che insomma è un discorso annoso che va avanti dagli anni 70 se non prima in Italia e non solo in Italia, è qualcosa su cui va riflettuto a fondo, ed è una situazione imprescindibile per rendere queste lotte, chiamiamole settoriali, sempre più forti e sempre più incisive. Quindi il discorso è questo qua. Massima solidarietà dunque allo Sparv, massima solidarietà anche al comitato di Capocolonna che abbiamo invitato oggi nei nostri studi. Ci sentiamo la prossima settimana con la solita puntata degli Scarafaggi, lunedì alle ore 18 sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 e ciroma.org. Alla prossima. Nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.